Parliamo ora di uno spettacolo che speriamo di avere presto anche qui al Radioteatro. Ne parliamo con Patrizia Bollini, che è autrice, attrice. Intanto, Patrizia, ben ritrovata su queste frequenze. Ciao, grazie Federico, grazie mille. Allora, stiamo parlando di Finisce per A. Dicci tutto. Sì, allora diciamo che Finisce per A è uno spettacolo teatrale sotto forma di monologo scritto in realtà da Eugenio Sideri. Okay. Diciamo che da me è partita l'idea e poi invece lui ha curato tutta la drammaturgia. Ed è uno spettacolo che narra la vita di Alfonsina Strada, che forse in pochi sanno è stata l'unica donna ad aver partecipato al Giro d'Italia nel 1924, quindi in tempi assolutamente non sospetti. Beh, c'è stato il videoclip con Margherita Hack che la impersonava, insomma, quindi... Sì, è vero, i Ted Bois hanno fatto una canzone dedicata ad Alfonsina con la grande Margherita Hack, è vero, nei panni di Alfonsina, insomma, già diciamo adulta grande nella sua officina a riparare biciclette. Sì, allora ci parli un po' di tutto il percorso che ti ha portato a quest'ideazione? Sì, guarda, in realtà è un progetto che è nato un po' di anni fa, già insomma saranno già almeno 6 anni fa. Io stavo lavorando a un progetto, volevo realizzare un progetto di teatro dove raccontare però, nel quale raccontare le donne sportive. E ho iniziato a documentarmi e in realtà ho trovato pochissimo materiale. Poi mi sono imbattuta in un libro dal titolo Gli anni ruggenti di Alfonsina Strada, scritto da Paolo Facchinetti, e l'ho trovato molto bello perché è una storia straordinaria, molto originale, di questa donna tenace che ha seguito per tutta la sua vita il suo sogno e la sua passione, che era quello di andare in bicicletta. Però poi contestualizzato, noi dobbiamo sempre pensare che si parla del 1924, quindi insomma anni un po' difficili, insomma. Anche solo il fatto di montare su una bicicletta essendo donna con i pantaloncini corti, insomma, portò scandalo, portò critiche, portò in realtà anche molti molti sostenitori. E poi lei è emiliana, io sono romagnola, ho sposato la causa e quindi ho contattato Eugenio Sideri dicendo: guarda, questa è una storia straordinaria, scrivi e portiamo in scena questo spettacolo per far conoscere questa donna straordinaria. Così è andata. Da quali materiali avete attinto? Ma di base l'ispirazione è stata scoprire che esisteva questa persona dal libro di Facchinetti. Sì. Dopodiché però insomma abbiamo dato un po' spazio alla fantasia, nel senso che il testo è stato interamente scritto da Eugenio. E lui in realtà si è posto questa domanda, ha detto: ma questi corridori ciclisti che stanno in sella 8, 10, 12 ore, che cavolo pensano, che fanno che devono solo pedalare? Quindi lui si è immaginato un'Alfonsina, almeno nella prima parte dello spettacolo, un'Alfonsina che mentre pedala parla con Gesù, che però è un Gesù, come dice lui, che è un po' nella strada, che è nei boschi, che è nell'erba, un Gesù che sta un po' dappertutto, un modo un po' di parlare, in effetti è un soliloquio per dare spazio ai pensieri. E quindi in realtà è stato sulla base di alcuni dati, alcune cose che noi sapevamo che sono vere della sua vita, poi dopo il resto insomma si è fantasticato e si è inventato un po' la struttura dello spettacolo e tutte le parole che ci sono dentro. Senti, che percorso ha avuto, visto che insomma stavi dicendo 6-7 anni fa? Guarda, un percorso, allora noi abbiamo lavorato sempre in modo diciamo autoprodotto e in modo autonomo. Sì. Abbiamo iniziato, diciamo, è partita da me proprio l'idea base: raccontiamo la storia di Alfonsina Strada, poi coinvolgendo Eugenio Sideri, che ha scritto tutto il testo, poi magari gli potevo dare degli spunti, ma così a fantasia. Poi abbiamo coinvolto Gabriele Tesauri per la regia e abbiamo cominciato a portarlo in scena, a portarlo in giro, però diciamo senza proprio una produzione vera e propria. Cioè è stato autoprodotto e poi ci appoggiamo all'associazione che è l'Edigodiva Teatro, a cui fa capo Eugenio Sideri, e siamo stati comunque un po' in giro, siamo stati a Bologna, siamo stati a Ravenna, siamo stati anche all'estero all'Istituto di Cultura Italiana a Bruxelles, siamo stati a Londra in occasione di Olimpiadi, insomma un po' abbiamo girato. Diciamo che noi continuiamo a farla pedalare l'Alfonsina, se ci chiamano e se riusciamo, diciamo, a distribuire lo spettacolo, io sono sempre in sella. Ecco, a questo proposito volevo chiederti, Patrizia, allora, una donna, rapporto con lo sport, ma non solo, quali sono i riflessi sull'oggi? Scusami, non ho sentito. I riflessi sull'oggi di questa storia. Ma guarda, io credo, adesso ultimamente si sta parlando della figura di Alfonsina Strada, si sta un po' rivalutando, vedi, i riflessi sono che, non so, è l'esempio di una donna emancipata che è andata controcorrente, tenace, soprattutto tenace, appassionata nel fare quello che ha voluto fare per tutta la vita, sì. Semplicemente, quindi i riflessi sono di solito un coinvolgimento da parte di chi lo vede, perché si intuiscono tutte queste emozioni, no? Questa vita straordinaria, quindi non so, porta avanti dei valori che sono, non so, veramente l'onestà, la tenacia, la forza, anche il sacrificio che sia nello sport soprattutto, ma che sia anche nella vita, quindi insomma una storia che spesso colpisce molto chi la vede. Senti, c'è un sito internet, una pagina Facebook di riferimento? Sì, e la pagina si chiama finisceperà.alfonsinastrada. Perfetto. È la pagina dello spettacolo. Ci diamo appuntamento prossimamente qui? Sì, magari io vengo volentieri, come no, certo, organizziamoci. Benissimo, tanto ogni martedì dalle 14 alle 16 in diretta, e quando farà comodo a te noi siamo a disposizione. Va bene, grazie mille, grazie. Ah, Federico, volevo dire, approfitto perché noi sabato siamo in scena. No, era proprio per questo che volevamo sentirci era oggi. Era partita da lì. Sì. Allora, ricordiamo il prossimo appuntamento a questo punto. Sì, allora noi sabato prossimo, che è il 9 settembre, siamo in scena a Piove di Sacco, in provincia di Padova, per una rassegna che si chiama Bici alla Ribalta. Loro hanno fatto varie iniziative, come tema centrale la bicicletta, e noi alle 21 siamo in scena con il nostro spettacolo Finisce Però. T'abbraccio e a presto. Grazie mille, ciao, un bacione, ciao.